eccolo qui. So le parole. Ma mettere un tono che riesce a cantare. Non vuole ti geli molto. Gli altri vedevano se ci sta. Ritirato mai stasera, una volta solo la sera, perché le dà anche uno basta, ah, se non le cara per le spese, cara mia, a quei ore greghi furbi lì, e tabatta due volte se i cari mangiano mia una volta al giorno, dipende da come ti abitua ben una volta al giorno ci riesci la ciana a caila è tu che grasso. Come si chiama Giovanni? Romy. Ah, è famosa. Bellissima. Si chiama Giuda. E invece una, la mia si chiama Buba. Buba. La Buba, sì. La Buba perché si chiama Buba? Aspetta, che era il motivo? Ah, Buba, lei era quel del film. No, ma non Buba. Bube. Buba, sì, lei era il film. Ma era uguale stellare. No, no, no. No, è quella di Forrest Gump. Forrest Gump. Ma era lo Buba. Che Buba la. Ah, di Forrest Gump. Buba è quello che. Che fa i gabberetti. Quel che fa i gabberetti. Che lui era il Buba. Buba, proprio. Buba, Buba. Buba perché la mia famiglia è come Forrest Gump, il disastro. E allora. Sì. Però dopo chiamo uno in affido, vero? La mia. Come si chiama? Mia? Mia. Ma le sua. Mia. Le sue che là. Esatto. Però che là le mia dato Dio culo. Le mia dato Dio culo. Me l'ha messa lì. Che adesso sorella della Buba, la mia. No, che la mia, le sua. Cioè, la mia, la mia. Della mia, ma è la tua. Dove? Mia, mia, le sua. È la mia, tua. E dopo, vedi tutti i giorni alla gamba e questo ecco. Tipo. Però una volta metti la macchina sempre in corsa, adesso le metti medio a custosa, le metti a custosa e finì, e dopo ogni tanto manca il cane, lei via, questo qua, E qua Fabio, sto Fabio qua, ma secondo me ha dei problemi esistenziali. Certo, vedessi Fabio, me l'ho visto quando l'ho visto? Partorio. Quando l'ho partorio le, era là che ti dia alla mamma, l'hai umato? Oh, come stai? Stai bene? Tutto bene? E la non la risponde. Perché non la ghiaia? Ma se no, secondo me la voleva rispondere. La mia o la tua? La mia. Penso che mi diria di fare quella di radici. Quella è famosissima. Si può fare quella di radici? È molto semplice, Fede. È proprio terra a terra, dai. Ecco, se non è terra a terra, era detto. Dandoelo. Non so da Dandoelo quel Fabio lì. Ma lei è molto schivo, un personaggio molto. Sta arrivando il cazzo. Ma cazzo, la ganca, la cosa questa. No, è che. Allora, devo raccontarvi l'antefatto di radici. Vi racconto? È la quella di radici? Sì. Ma sì, dai, sono. No, che piace mia tanto. No, vai. Sì, sì, grazie. Aspetta che alzo il volume. Aspetta che alzo il volume. No, perché alzo tutto il volume. Blusata. Blusata. Perché era blusata. Radici o broccoletti? Perché il broccoletto che ho visto. Alzo tutto qua. Portati da un. Ma che vuole alcol? Aspetta che alcio tutto, alcio. Niente, solo foglie. Ah, che alcio tutto, grazie. Infatti del fiore una roba. Ci sono solo le foglie. Ma il broccolo è gustoso, è così? Ah, ma a volte che è un po' tossico. Una fioretta. Allora, fatemi dire, io ho preso, non so come funziona, è così, che buone. Ma ok, tirare fuori quelle più vece. Le cose di Michael Ovvi duri. La ciana però, a parte scherzi, la fa un desfritto. Un desfritto del broccoli. Allora, dei broccoletti venivo proprio dalla ciana. Antefatto di radici, che non gli è i broccoli. Allora, eravamo sotto le feste. Qua che le feste, guardate, serene sotto. E canto il mio amico, era un venerdì, e al venerdì a Somma Campagna che è il Marcà è il cato il mio amico Alfonso che non è l'Alfonso perché non è mica ancora mio amico, può darsi che diventerà anche mio amico a trettene. Ecco, questo qua trova Alfonso Principe, si chiama Alfonso Principe, non è principe lui, si chiama così Alfonso Principe, non è principesco, principe Alfonso suo paio cieco. No, lei dal Molise, da Campobasso. Non è mia, cieco. Ma no, le orbo.